Tutti gli anni, in concomitanza alla giornata mondiale della lotta al cancro infantile, che è il 15 febbraio, noi, anche sostenendo ovviamente quelle che sono le iniziative nazionali, però cerchiamo di dare una risposta concreta a un problema legato ai bambini. Quest'anno lo abbiamo dedicato appunto alla ricerca, a due progetti di ricerca sui sarcomi, che sono tumori solidi del bambino particolarmente aggressivi, maligni, recidivanti e con una prognosi purtroppo ancora in maggior parte infausta per il 60% dei casi. Questo è il nostro impegno, per cui ci siamo posti questo obiettivo abbastanza ambizioso di raccogliere dal 15 di febbraio al 15 di maggio 80.000 euro per sostenere appunto i contratti a due ricercatori per un anno attraverso la piattaforma di crowdfunding ideaginger.it. Poi abbiamo varie iniziative sul territorio che ci sostengono. Venderemo i biglietti di una lotteria il 25 marzo, aspettiamo tutta la cittadinanza in Piazza Maggiore per unire insieme, perché soprattutto la nostra battaglia è sempre nell'affermazione del diritto, perché se si mettono i diritti in primo piano le soluzioni sarebbero sugli occhi di tutti. C'è una carta che è la carta di ICH, che è la carta dei diritti del bambino in ospedale, che dovrebbe essere applicata e sostenuta, perché contiene tutte le risposte che il legislatore dovrebbe dare nella malattia del bambino. Perché avete scelto come oggetto di ricerca proprio il sarcoma? Il perché di questa scelta? Perché il sarcoma è quello che è più indietro, è quello che in questi 20 anni non ha fatto passi avanti. Proprio perché, essendo un tumore molto raro, non c'è interesse a investire. Siamo ancora soltanto con dei farmaci di prima linea e quindi vuol dire che nel momento della recidiva non ci sono delle risposte strutturate, e questo è molto molto grave. Per questo noi vogliamo impegnarci su una malattia che è rara, ma che comunque corrisponde circa al 22% dei casi di tumore annuali nei bambini.